terra lo produce, e loro anche per te. Su c'è un'abbondanza di gusti e varietà, ed è una provvidenza che reca sazietà, ed è una prova che sostiene.